9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 12 luglio con un'occhiata oggi obbligata come ieri, dopo il venerdì nero e dopo l'inizio pessimo e ancora peggiore di settimana ieri, oggi obbligatorio guardare di minuto in minuto cosa avviene sui mercati, gli andamenti di spread dei titoli del debito pubblico nell'euroarea e poi anche in borsa cosa capita ai bancari che con il loro precipizio guidano il listino verso il basso. Se si dà un'occhiata oggi ai maggiori quotidiani internazionali, ci sono, ho dato rapidamente un occhio stamattina, il País, per esempio in Spagna, dice che punta il dito con grande durezza contro i politici tedeschi, olandesi e finlandesi, c'è la dura che da un anno e sette mesi non vuole dire la verità ai propri elettori. La verità ai propri elettori è quella che bisogna intervenire con meccanismi non previsti dal trattato europeo, non tanto per salvare i greci spreconi, i portoghesi che hanno un problema nella bilancia dei pagamenti, gli spagnoli per la loro bolla immobiliare, quanto bisogna dire la verità ai propri elettori, bisogna salvare l'euro in quanto tale. Dopo un anno e sette mesi e dopo che le regole per il raddoppio della dotazione degli strumenti straordinari, cioè European Stabilization Mechanism, saranno vigenti solo dal 2013, che cosa è avvenuto, scrive il Paese? È avvenuto che le forze del mercato mondiale hanno capito che fino al 2013 si può, anzi a quel punto si deve, scommettere sul fatto che l'euro salti, e quindi è dei tedeschi, degli olandesi e dei finlandesi innanzitutto la responsabilità di quello che sta avvenendo, perché il mercato non si arresta e di qui al 2013 inevitabilmente continuerà a scommettere sul fatto che l'euro non regga. Ho visto poi altri giornali come quelli tedeschi che invece ribadiscono il ragionamento assolutamente capovolto. Bild per esempio scrive che coloro che accusano i politici tedeschi dimenticano che all'atto della ratifica del trattato la Germania ha sottoposto a una rigorosa procedura di interpretazione della propria Costituzione il nuovo trattato, e quindi chiedere ai tedeschi di dimenticare che ogni singolo euro in più in dotazione a strumenti non previsti dai trattati deve essere compatibile con la lettura della propria Costituzione e deve anche essere verificato dalla Corte Costituzionale tedesca, significa dimenticare le buone regole di una convivenza comune. I tedeschi non sono imputabili di nulla e anzi alla Germania pesa naturalmente tutto quello che sta avvenendo, pesa fino a un certo punto, perché poi in realtà la Germania si è nel suo export avvantaggiato del fatto che gli euro deboli hanno ottenuto non troppo in su la rivalutazione dell'euro, che è arrivata a 1,44-1,45, adesso l'euro una quota 1,39, quindi è chiaro che si esporta meglio. Il problema è naturalmente l'Italia a questo punto, che per un anno e mezzo si è forse cullata troppo sull'illusione di non entrare nei paesi generatori di sfiducia, poi ci è entrata inopinatamente nel giro di poche ore, come sempre avvengono queste cose. Cos'è avvenuto? È avvenuto che in pochi giorni si è stato rivelato ai mercati qualche ammanco nei conti pubblici? No, è stato rivelato qualche improvviso affare ignoto nei conti economici o negli attivi patrimoniali di Banca Intesa, di Unicredit, le banche che perdono a precipizio in pochi giorni e vengono quotate a valori ridicoli rispetto al loro valore di libro. No, naturalmente no, però è successo che ci sono una pluralità di forze che convergono verso la scommessa che in questa finestra di tempo, in assenza di misure europee, l'Italia per l'ingenza del suo debito pubblico, il quarto al mondo per consistenza, il terzo quello tedesco, che però è un PIL maggiore di noi, è ovvio che diventa inevitabilmente un paese contro il quale scommettere. Conta questa debolezza europea, che anche ieri non è stata risolta, ci sono oramai più piani all'esame dell'Eurogruppo e che devono lì essere deliberati per poi essere sottoposti al Consiglio europeo, ma nessuno riesce a passare, ci sono piani volontari da parte delle banche titolari di debito pubblico greco per partecipare a un rifinanziamento attraverso la mancata corrispondenza di interessi sui titoli detenuti, per il rifinanziamento invece di un fondo a più lungo termine del debito pubblico greco, piano volontario ma non convince tutti, a cominciare dai tedeschi. C'è chi pensa oramai che invece bisogna pensare a qualcosa di molto più strategico, cioè a far acquistare direttamente all'attuale duplice strumento straordinario, l'EFSF, titoli contro i quali si scommette sui mercati dei paesi in difficoltà dare in cambio titoli buoni, però questo attualmente cozza col fatto che la FSF non può agire sul mercato secondario per i titoli del debito pubblico, dove invece i tedeschi hanno voluto che comprassero i titoli la BCE, che non li vuole acquistare sul mercato secondario. Secondo me ha ragione, perché altrimenti altri meccanismi di creazione della base monetaria. Vedete quante regole nuove avrebbero dovuto essere adottate in questo anno e mezzo, non previste nei trattati, ma per fronteggiare cose così impensabili effettivamente ci vogliono politici e tecnici di grande visione, e fino a questo momento invece si è vista più la ruggine che la capacità di assumere decisioni nuove in Europa. E la seconda forza che è anche in atto è quella che deriva dalla crisi americana. Il 2 agosto si sfora il tetto del debito pubblico negli Stati Uniti, pari più o meno al 100% del PIL, 14,2 trilioni di dollari. Non c'è affatto accordo tra l'amministrazione Obama e i repubblicani su come tagliare i 4.500 miliardi di dollari in 10 anni tra minori spese e tasse. I repubblicani vogliono che si incida molto di più nelle spese per non aumentare le tasse rispetto all'amministrazione Obama. È ovvio che i grandi intermediari americani abbiano tutto da scommettere preferibilmente sulla mancata tenuta europea che su quella naturalmente delle conseguenze di un mancato accordo americano sul nuovo tetto di debito pubblico e su come tagliare la finanza pubblica americana, perché altrimenti è come se scommettessero sugli oneri in più che devono pagare loro sul loro mercato. Poi c'è anche un interesse, secondo me, di un po' di grandi banche europee, francesi e tedeschi contro le banche italiane. Questo è un capitolo aggiuntivo rispetto alle scommesse sui titoli del debito pubblico italiano, perché in attesa di stress test escono venerdì. Stress test, secondo me, fatti coi piedi, lo dico tecnicamente, hanno consentito alle banche tedesche di fare quello che vogliono rispetto agli attivi che detengono in molti casi. Cioè, quindi io sono un po' molto critico su come tecnicamente sono stati tenuti questi stress test, e sono diventati alla fine dei meccanismi attraverso i quali il mercato scommette contro. Paradossalmente fanno più male le banche che non sono state ricapitalizzate col denaro del contribuente come le nostre, di quanto facciano invece al contrario. E in vista di questo appuntamento c'è un certo interesse delle grandi banche francesi e tedesche a buttare sotto la capitalizzazione delle banche italiane. C'è anche qualcuno in Germania che pensa che così più facilmente si convince Unicredit, per esempio, che è quella che perde di più dall'inizio dell'anno, siamo al 35-38%, così si obbliga meglio forse Unicredit a rivendere ai tedeschi puliti gli attivi che abbiamo comprato dagli stessi tedeschi anni fa e che erano contabilmente e patrimonialmente assai meno appetibili di quanto non siano oggi. Ecco, poi in più c'è la debolezza italiana, c'è il governo che si è diviso, la manovra che è entrata nel Consiglio dei Ministri che è stata diluita, quello che avviene al Tesoro con le vicende di Marco Milanese che indeboliscono molto Tremonti, Berlusconi che ha detto a Repubblica che Tremonti è disomogeneo dal governo, Berlusconi che si è indebolito da un anno e mezzo per una serie di elenchi lunghi più o meno come la Bibbia, e che adesso certo non è rafforzato dalla sentenza con i 560 milioni che deve rendere la sua media setta CIR. Tutto questo e tutto questo c'è dietro tutto questo, ma come si risponde a tutto questo adesso? Si risponde prendendosela solo ai complotti di speculatori, augurandosi che l'opposizione in poche ore vari la manovra così com'è in Parlamento? Io sono di un'altra opinione e ho finito la mia introduzione. Io penso che la crisi del 92, che il realismo nella conoscenza dei mercati globalizzati di oggi, di fronte a questa finestra che una pluralità di errori e di interessi tengono aperta per lungo tempo, in cui è finita anche l'Italia, obblighino a pensare che bisogna approvare sì rapidamente la manovra, ma non così com'è. Bisogna rafforzarla molto, bisogna rimediare alle diluizioni inopinate avvenute, per esempio diluendo fino al 2032 il meccanismo di innalzamento del tetto pensionabile alle lavoratrici donne del settore privato. Bisogna ripristinare il testo per cui si comincia subito dall'anno prossimo innalzamento del tetto e si finisce entro il 2018, così diventa strutturale. Quindi bisogna metterci una decina, una dozzina di miliardi di euro di tagli in più subito, in parole povere, strutturali. E in più bisogna anche metterci, secondo me, in 3 anni 2 punti di privatizzazione immobiliare. Tanto l'attivo patrimoniale immobiliare c'è, è largamente superiore al debito pubblico, di cui il Tesoro ne ha stimati 400 miliardi che si possono mettere a reddere o cedere. Io sono perché inevitabilmente si metta mano al portafoglio pubblico. Non voglio patrimoniali a me che pago così tanto se il portafoglio dello Stato è ancora così ricco, per essere chiari. E su questo tutti quelli politici, tantissimi, che iniziano a dire patrimoniale, patrimoniale, è perché non vogliono incidere nel portafoglio pubblico, non vogliono tagliare innanzitutto i propri regimi privilegiati odiosi, odiosi, e allora per favore bisognerà iniziare a pensare a mettere le barricate contro la patrimoniale, perché altrimenti ci si finisce dritti, questa è la mia sensazione. Allora, mi taccio per ora, sentiamo gli ospiti di oggi. Abbiamo innanzitutto con noi Carlo Gentili, amministratore delegato di Nextam Partner, che saluto e ringrazio. Buongiorno Gentili. Buongiorno, buongiorno a voi. Alessandro Barbera, giornalista della Stampa, se lo sentiamo spesso, buongiorno Alessandro. Buongiorno a voi. Giulio Sapelli, che insegna storia economica alla Statale di Milano, una voce spesso fuori dal coro. Buongiorno Sapelli. Buongiorno, mi spiace che alle 9.30 dovrò lasciarvi, va ma bene. Vi ringrazio molto. Va bene, Gentili, ci dà un quadro di quello che si aspetta e di cosa i mercati scommettono sulla tenuta e anche di che cosa vuol dire per le conseguenze degli operatori comuni, delle imprese che devono finanziarsi, tutto quello che sta avvenendo quando i differenziali salgono così tanto? Beh, è estremamente complicato quello che sta accadendo. Intanto Abruzzo ha aperto con altro meno 4, il BTP decennale ha raggiunto circa il 6% di rendimento, che la dice lunga sul fatto che i mercati non si sono affatto rasserenati nel corso, diciamo, delle ultime ore. Questo rende la situazione delle banche ancora più complessa, che sono quelle veramente, diciamo, nel mirino da un punto di vista borsistico, perché è evidente che se lo spread Bund BTP sta strutturalmente, o se lo proiettiamo da qui a un anno strutturalmente sopra i 2, 2,5 o addirittura come oggi 3 punti percentuali, è chiaro che tutti i business plan provati nel corso dell'anno dalle banche italiane non sono più realizzabili, sono ipotesi cartacee e basta, e le banche italiane faranno molto fatica, se questo scenario dovesse permanere, a fare funding per le proprie attività. Secondo aspetto, evidentemente le banche subiscono in questi giorni perdite ingenti sui loro portafogli titoli, perché le banche italiane sono i principali detentori del debito pubblico italiano. Questo le indebolisce strutturalmente e, appunto, da un punto di vista borsistico, in questo momento Unicredit è sospesa per eccesso di ribasso e le altre sono lì vicino, insomma, ad essere forse sospese anche loro. Quindi questo, diciamo, è il primo aspetto, come dire, pratico, materiale, che si sta concretizzando sui listini. Per evitare tutto ciò sono d'accordo che servirebbe un rafforzamento, non solo un'approvazione rapida della manovra, ma soprattutto un rafforzamento e un segnale di forza nei confronti del mercato. Il mercato, purtroppo, come il 2008 ci ha dimostrato, potrebbe, come dire, lasciarsi andare all'irrazionalità o comunque a questa irrazionalità collettiva, isterismo collettivo, perché in definitiva i conti dell'Italia credo che sostanzialmente non meritano tutto questo, e men che meno lo meritano le nostre banche, ancorché si possa discutere su alcune, su certe scelte, eccetera. Però da un punto di vista degli attivi patrimoniali le nostre banche sono certamente più solide di quelle di molti altri paesi, e quindi insomma, diciamo, questo è un po' la situazione. Cioè il 2008 ci ha dimostrato che l'irrazionalità può prendere il sopravvento, e quindi la classe politica italiana ed europea soprattutto di questo dovrebbe tener conto e dare i segnali che il mercato si aspetta, per fare in modo che l'irrazionalità non prevalga su tutto. C'è di vero che le unioni monetarie, o comunque le unioni solamente monetarie, non durano a lungo, storicamente ne sono saltati tutti, diciamo, i concambi fissati, prefissati, eccetera. L'euro in un certo senso è un po' figlio di scelte rigide di questo genere, non sono seguite le scelte politiche, l'unione politica. Il mercato questo lo sa ed è lì che punta a scardinare, prendendo di mira uno per uno i paesi più deboli, fino poi in realtà a prendere di mira l'euro come moneta unica. Questo credo sarebbe catastrofico, perché di fatto l'euro ha consentito l'inserimento e l'applicazione di una disciplina che Italia compresa, tutti hanno abbastanza rispettato, e hanno contribuito a migliorare i conti pubblici di tutta Europa. Quindi era tecnicamente fallito e sono state obbligate tutte le banche ad accettare gli aiuti di Stato, altrimenti il mercato probabilmente le avrebbe stese una dopo l'altra. È possibile secondo lei il sommarsi della crisi dell'Eurozona e di quella Stati Uniti? È possibile? Il sommarsi delle, sì, rispetto al, al ceiling, al tetto di debito pubblico americano? Sì, anche se diciamo c'è un bel articolo oggi sul Financial Times, Alex Collins, intitolato Spaghetti Western, che stranamente diciamo ci sostiene, il quale dice in sostanza negli Stati Uniti c'è appunto una politica economica, una politica di bilancio non disciplinata, perché sforamenti, deficit fiscale al 9,3% sul GDP, ma in realtà il mercato non è così preoccupato. Se questa politica ce l'avesse, dice espressamente, l'Italia o il Portogallo, chissà dove sarebbe lo spread in questo momento. L'Italia non ha fatto nulla di tutto questo, anzi ha corretto i suoi conti e non c'è neppure troppo a lamentarsi, ma in realtà la stanno mettendo sotto processo per molto meno. Quindi sì, certo che potrebbe sommarsi se qualcuno appunto intendesse mettere anche gli Stati Uniti sotto gli stessi metri di giudizio ai quali siamo sottoposti noi in questo momento. Intanto una notizia: militare oggi ucciso in Afghanistan nell'esplosione di un ordigno, si chiamava Roberto Marchini, aveva 28 anni, era un ingegnere paracadutista dell'ottavo reggimento guastatore di Legnago, provincia di Verona. Il giovane era originario di Viterbo e lo diciamo perché la famiglia nel frattempo è stata avvisata. Onore a lui, è il 40° caduto italiano in Afghanistan. Sapelli, moltissimi nostri ascoltatori qui arrivano a roventi messaggi al 349 238 6666, che dicono: diteci i nomi di chi sono gli speculatori, come si fa ad accettare l'idea che l'Italia venga travolta dalla speculazione. Poi ci sono gli italiani che si vedono a metà, c'è chi dice Prodi ha già tracciato la strada tutti insieme, Banca Italia, governo e opposizione, governo di emergenza, questo Prodi intervistato qua a Radio 24 a Barisone, c'è oggi anche sul Sole 24 ore, c'è chi dice invece no, l'Italia divisa che si uccide politicamente dà una mano a chi giustamente sui mercati attacca l'Italia, ma perché attacca la debolezza dell'Europa. Lei che pensa? Ma io penso che queste chiacchiere sugli speculatori, così se posso permettermi con molta umiltà, contro i comportamenti irrazionali dei mercati, sono appunto chiacchiere. I mercati non sono né irrazionali né razionali, poi sembra strano che lo dicano quelli che sostengono il pensiero unico, il mercato e l'allocatore sempre razionali. I mercati fanno il loro mestiere, che è quello di creare una profittabilità immediata per gli azionisti degli hedge fund, per gli azionisti dei fondi di investimento, e soprattutto se ne vanno dai paesi che non danno una stabilità di lungo termine, se sono investitori a lungo termine. Se sono investitori a breve, fanno quello che in pratica dice Soros oggi sul Financial Times, facendo una lezione di storia europea, mentre in effetti penso invece ad un'altra cosa, al fatto che l'euro nel medio breve periodo non reggerà, e quindi si preparano a cogliere i frutti. Non c'è nessun comportamento razionale, non c'è nessuna speculazione. Questa cosa che la Consob ha fatto di impedire le vendite allo scoperto è una prova di debolezza e non ha fatto altro che indebolirci. Naturalmente le questioni che adesso tirano fuori vari Prodi e compagni, voglio dire, sono sì accettabili. Bisognerebbe avere un primo ministro che ci metta la faccia, che faccia un appello al paese, però il problema vero è che per fare queste cose bisognerebbe aver commissariato lo Stato, come avevamo fatto nel 92-93, quando avevamo di fatto sospeso la democrazia e avevamo dato il governo in mano ai tecnici. Un governo politico difficilmente sa fare questo, a meno di non avere dei politici come Kohl, che quando ci fu l'unificazione tedesca si mise contro la Bundesbank. Il problema oggi dell'Italia è che sono in atto due grandi pressioni: una che viene da lontano, che è il fatto che nel Novecento i tedeschi hanno sempre perso le guerre ma hanno sempre vinto le paci, quindi adesso loro hanno fatto il loro takeover sull'Europa, è inutile che questi stridino contro i tedeschi fanno quello che hanno sempre fatto, non gli si può chiedere di fare una cosa diversa, loro hanno in mente un'altra cosa, un'altra idea di Europa, e naturalmente mi fanno ridere gli spagnoli, con tutto il rispetto, ma Zapatero è un personaggio comico, che invece accusano le banche tedesche, no, devono accusare loro stessi, perché hanno, i greci hanno addirittura falsificato i conti, gli spagnoli hanno fatto una politica di bolli immobiliari senza... Il problema vero qual è? Vengo al dunque in modo molto semplice. I nodi sono venuti al pettine. L'euro non ha nessuna base strutturale se non quella di una forte crescita che è avvenuta subito dopo che abbiamo superato la tempesta della prima metà degli anni 90. Questa forte crescita ha coperto l'impossibilità di tenere in vita una moneta senza Stato. Adesso i conti si presentano. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente bisognerebbe mettere in atto tutte quelle cose così belle che tu hai detto all'inizio nella tua biblica introduzione. Bisogna porsi una domanda. A Bruxelles abbiamo decine di migliaia di funzionari, abbiamo migliaia di economisti laureati che lavorano nel fondo, eccetera. Io mi chiedo cosa ci stanno a fare. Era molto meglio come abbiamo governato la crisi del 1907, quando non c'erano le banche centrali, non c'era il Fondo Monetario, si sono riuniti i grandi banchieri mondiali attorno a JP Morgan e hanno controllato la crisi. Quindi bisogna che noi ci facciamo un po' l'esame di coscienza. Finisco dicendo che continuare a preoccuparsi che l'inflazione può salire, l'unica cosa che ci può salvare sono tre cose: un po' di inflazione, due, misure drastiche sul debito pubblico che cominciano in primo luogo dall'età pensionabile. Io ero in Australia 2 anni fa, laburisti e conservatori in un giorno in un paese che va abbastanza bene, hanno tanta crisi, hanno votato l'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni in 6 mesi. Questo bisogna fare. Terzo, bisogna mettersi in testa che bisogna, se non vogliamo che usciamo da questa crisi con una deflazione giapponese, pensare a come si fa a fare la crescita. Quindi sono d'accordo con lei, sono d'accordo con te, Oscar. Nessuna idea di patrimoniare cose di questo tipo, ma invece pensare ad una detassazione sul lavoro e sul capitale. I mercati capiranno, è meglio avere ancora un po' più di debito pubblico ma avere una possibilità di crescita, perché così andiamo incontro ad una giapponizzazione di tutta l'Europa del Sud, perché qui bisogna capire che l'Europa non esiste. Esistono 3 Europe, l'Europa del Sud, l'Europa continentale e l'Europa scandinava. E poi questa cosa strana che è arrivata in questi ultimi anni, che sono gli slavi del centro, diciamo del sud e del centro sud, popoli che hanno poco a che fare con l'idea europea, popoli euroasiatici molto affascinanti, ma con cui non si può applicare le regole dell'economia capitalistica come l'abbiamo vissuta noi. Quindi è una situazione complessa, ci vorrebbe un po' più di pensiero complesso e un po' più di coraggio politico. Bisognerebbe che il nostro primo ministro andasse davanti alla televisione e parlasse agli italiani, bisognerebbe che si facesse un governo di unità di salute pubblica, però con un programma che non è dettato solo dal pensiero unico della riduzione del debito, perché tanto la cosiddetta speculazione non si ferma. I mercati non stanno ad ascoltare coloro che li accusano, ascoltano solo le linee di posizione chiara. Avessimo preso quel provvedimento sulle pensioni, sarebbe già stata un'indicazione molto chiara. I ministri poi stessero zitti. Già. Questa è la concetta, che se io sono il ministro del tesoro e dico a un mio collega che è un fesso, è chiaro che tutta questa cosa ha degli effetti sconvolgenti. Se io sono un fondo di investimento, dove li metto i soldi? In un governo stabile mi fa meno paura Obama, che è in crisi, ha tutti gli enormi problemi, che non un paese come l'Italia, che è un paese sud-europeo, che quindi soffre di tutte le malattie antropologiche di questo paese. Allora, io direi che su questo tenace appello di Giulio Sapelli a un altro pensiero rispetto a quello dominante di pensare solo a misure contingenti o fiscali per il debito, io chiudo questa prima parte. Ricordo che ieri in Portogallo in 2 ore hanno introdotto una tassa sul 50% della tredicesima, che è sparita in tasca ai portoghesi. Attenti, perché questo è quello che capita se non si adotta la linea invece privatizzazioni immobiliari e diminuzioni severe della spesa con diminuzione delle tasse, della linea per così dire Sapelli-Giannino, un'altra linea non rappresentata per così dire nel Parlamento di oggi, e chissà che purtroppo i non rappresentati abbiano ragione e i rappresentanti di una parte e dell'altra di questa politica italiana abbiano torto. Quello che vorrei spiegare ai nostri ascoltatori, che continuano a dire gli speculatori, ragazzi, qui in momenti come questi la mia opinione è che un politico che abbia un'idea, una vaga idea, o consiglieri in grado di dargli una vaga idea su cosa sta succedendo sui mercati, non dovrebbero avere esitazioni. Cioè non, ripeto, non dovrebbero trovare scuse nel ritardo europeo, nella Babele europea da un anno e sette mesi, che è il quadro di fondo che ha indotto le forze del mercato a scommettere sulla non tenuta dell'euro, perché c'è una finestra temporale ampia fino al 2013 per scommettere su questo. Non dovrebbe nascondersi dietro un dito la difficoltà interna della propria coalizione, ciò che pensa il proprio ministro del tesoro, ciò che pensano dei giornali italiani, ciò che pensa dei giudici. Dovrebbe capire che dovrebbe annunciare entro poche ore misure inaspettate, imprevedibili, tali da affrontare una crisi che diventa altrimenti nell'andamento temporale e negli effetti su tutto ciò che è quotato a un valore e deve scontare a un tasso di interesse possibile. Bisogna fare un prestito a qualcuno, non si può fare in queste condizioni in Italia. Avete capito cosa vuol dire? Ecco, allora, un governo capace di questo annuncia misure entro poche ore, ora, prima che chiuda il mercato, altrimenti vuol dire che non sa bene che cosa sta capitando, che non è responsabile di fronte alla gravità dell'attacco in corso, che non è all'altezza di rispondere alla fiducia che milioni di italiani in questo momento si vedono sospesa sui mercati. Non riguarda solo i titoli del debito pubblico, non so se avete capito la faccenda, riguarda ogni negozio giuridico che ciascuno di noi voglia porre in essere in queste ore, perché non è scontabile, non si può fare un prezzo a un tasso di interesse con attacchi di queste proporzioni. Se pensate che sto drammatizzando, vi sbagliate, sbagliano loro che vogliono invece rassicurarvi e dire gli speculatori eccetera eccetera, e poi magari vi fotteranno come è avvenuto già più volte nella storia italiana. Allora, Alessandro Barbera, può essere che io drammatizzi, ma lei invece come la vede? No, temo che tu abbia ragione, la portata dell'attacco è persino superiore alle mie previsioni. Questa crisi viene da lontano, ahimè, e non tocca solo noi. Non dimentichiamo che in Europa comincia in Grecia, che ieri il differenziale ha raggiunto i massimi anche in Spagna e che Obama, il capo dello Stato che ha riformato la sanità americana, ha annunciato ieri tagli alla sanità americana per cercare di mettere un argine anche alla crisi del debito americano. Io temo che siamo all'inizio di un'estate molto lunga. Non dimentichiamo che ad agosto ci sarà il giudizio di Moody's sul debito americano, prima ancora che le decisioni dell'Europa sulla sorte della Grecia. Io temo che siamo in una situazione molto complicata. Per quanto ci riguarda, non è la situazione del 92 rispetto alla situazione dei conti pubblici, ma più complicata del 92 per il contesto nel quale avviene questo attacco speculativo, perché oggi la sensazione è che la sorte delle banche è legata alla sorte dei debiti sovrani più di quanto non lo era allora, e la crisi questa volta è anche negli Stati Uniti, all'altra parte dell'Atlantico, quindi è veramente un ginepraio. Io non sono così pessimista su Sapelli, così pessimista come Sapelli rispetto a quello che l'Europa potrà fare. Io credo che l'Europa non potrà non fare qualcosa nelle prossime ore, non credo che la BCE non possa non muoversi per cercare di fare in modo che la situazione si calmi. Certamente deve fare qualcosa la politica italiana. Io, se posso permettermi, trovo alcuni titoli dei giornali stamattina, in particolare il titolo della Padania, lunare. La Padania che oggi titola: abbiamo salvato le pensioni, verrebbe da dire abbiamo salvato le pensioni e adesso affondiamo l'Italia, perché l'idea di pensare che in una situazione del genere l'unica cosa che conta è poter rivendicare di aver ammorbidito una riforma che io credo fra l'altro alle donne converrebbe, cioè l'aumento dell'età pensionabile per le donne nel settore privato. Ora, secondo me la politica deve darsi una svegliata. Oggi c'è un'asta sui bot, domani c'è un'asta sui BTP, i tempi della manovra non sono, secondo me, i tempi del mercato. Io credo che anche l'opposizione sbagli quando crede che ci siano due settimane di tempo. Io credo che la manovra bisogna approvarla molto in fretta e, come dici tu, cambiando alcune cose. Credo che sulle pensioni bisognerebbe immediatamente fare marcia indietro. Le pensioni sono l'unica vera misura strutturale sicura che i mercati apprezzano. Di riforma delle pensioni ce n'è bisogno, perché l'età media di tutti noi è aumentata. Non c'era alcun motivo per allungare di così tanto e di non anticipare le misure che invece il Tesoro avrebbe voluto anticipare. L'entrata in vigore dal 2012, questa era scritto in una delle bozze della manovra, è entrata in vigore dal 1 gennaio 2012. della riforma che aggancia l'età pensionabile e l'aspettativa di vita, l'immediato aumento dell'età pensionabile delle donne nel settore privato, così come era stato fatto per le donne nel settore pubblico un giorno dopo una procedura di infrazione dell'Europa. Non c'è tempo da perdere, effettivamente la situazione è molto peggiore di quanto si potesse immaginare. Stamattina gli spread sono arrivati già a 330 punti sui bund tedeschi, sono le 9,40, significa che siamo ad un differenziale che è più che doppio rispetto al differenziale più alto della media di tutto l'anno scorso. È bene svegliarsi tutti e capire che nelle prossime 24-48 ore il governo deve fare qualcosa. Io ricordo a tutti che noi abbiamo avuto un innalzamento della curva generale di rendimento, cioè del totale del rendimento del complesso dei titoli del debito pubblico, che hanno durata diversa, scadenze diverse. Ecco, quando si aumenta di 100 punti base la curva generale dei rendimenti del totale del debito pubblico italiano, l'effetto nei 4 anni successivi è più o meno di 1,5 punti di PIL di maggiori oneri da pagare in interessi del debito pubblico. Noi avevamo avuto 150 punti base di aumento alla curva dei rendimenti in 18 mesi dall'inizio della crisi dell'euro debito, e oggi stiamo totalizzando in 3 sessioni di borsa un aumento che, se si cristallizzasse, avrebbe praticamente il raddoppio dei 23 miliardi di euro che sarebbero il combinato disposto, che sono il combinato disposto di 18 mesi alla spalla, che il governo aveva inglobato infatti nelle sue previsioni di maggiorazione degli oneri del debito pubblico, passando più circa da 70-73 miliardi a 93-97 miliardi nel 2014. Quello che è successo in 3 sessioni può raddoppiare il costo, e quindi fa scrivere tutte le manovre pubbliche sull'acqua se non si interviene immediatamente. Donato Masciandaro, come la pensa, cosa si aspetta come reazione italiana ed europea? Mentre dicevo buongiorno c'era la sua domanda, quindi non l'ho sentita. Allora, stavo dicendo, dopo che noi stiamo un po' drammatizzando, però io sono seriamente e responsabilmente convinto che bisogna farlo in questo paese, ma invece chiedevo a lei, insegna alla Bocconi, è uno studioso, di crisi ne ha viste, le ha studiate soprattutto i motivi precedenti e le cause poi che sfociano in peggioramenti o in miglioramenti, cosa si aspetta alla luce di questo dall'Italia oggi e dall'Europa? Io concordo con lei che l'Italia non deve aspettare l'Europa, l'Italia può essere un buon esempio per l'Europa. Ci sono delle cose che le nostre autorità nazionali devono fare, e vado nell'ordine. In primo luogo occorre depotenziare alcuni catalizzatori della crisi, me ne viene in mente uno, le agenzie di rating. Nello stesso interesse delle agenzie di rating, che devono tornare ad essere quello che sono, dei soggetti privati che vendono consulenza, vendono giudizi, che cercano clienti, quindi la percezione deve essere questa. Quindi eliminare tutti i riferimenti al rating all'interno della regolamentazione, perché sono diventati un moltiplicatore di incertezza, non sono diventati un fattore di certezza, quello che è la loro funzione in un mercato. In secondo luogo, smetterla con questa storia degli stress test, non servono a niente se va bene, nel senso che se vanno bene nessuno ci crede, se invece vanno male sappiamo quali sono i problemi, e vedo che nonostante tutto venerdì ancora si continua ad annunciare gli stress test. In terzo luogo, come diceva lui, il nostro governo deve dire delle cose serene ma decise. La prima è che il governo sarà sempre a fianco delle banche italiane. Ricordo che bastò l'annuncio che il ministro Tremonti fece qualche tempo fa durante la crisi, che il governo avrebbe guardato con attenzione alle banche italiane, e le banche italiane, per loro meriti e anche per quell'annuncio, non ebbe bisogno di alcun aiuto dello Stato. Il governo italiano deve far riflettere tutti su come si sta disegnando Basilea 3, non servono a niente i coefficienti di capitale da solo, quelle che servono sono i limiti sulla leva, i limiti all'indebitamento. Il problema è che questi limiti non sono stati posticipati ad un futuro più o meno definito, ma in realtà lontanissimo, perché la leva, i limiti al debito sono quello che la finanza anglosassone non può permettersi, proprio per il suo alto indebitamento privato. Noi non abbiamo l'alto indebitamento privato, quindi io credo che il nostro paese deve ragionare con la sua testa e proporsi come modello per l'Europa, perché noi abbiamo delle possibilità per farlo. Basterebbero annunci, io mi sono limitato sul perimetro che conosco meglio, quello della regolamentazione bancaria e finanziaria, per dare quel segnale di serietà e di decisione che in queste ore serve, ma non serve solo in queste ore, serve sempre. Il punto è che se continuiamo ad attendere che l'Europa decida, e l'Europa attende che gli Stati Uniti decida, non è successo niente e ne stiamo vedendo le conseguenze. Nel frattempo noi abbiamo nuove banche sospese, oltre a Unicredit che perdeva di nuovo oltre il 7%, anche BPM si è aggiunta, quindi la tendenza non si sta mitigando in questo momento. Ti metterei anche una rapida trattativa di cui ci sono le basi con Eurostat, non vi sto dicendo sciocchezze, perché in attuazione della direttiva che dà 60 giorni di tempo per il pagamento dei debiti pubblici, quelli che in Italia nessuno sa quantificare e stanno tra i 55 e gli 85 miliardi di euro, cioè debito sanitario compreso dentro, e che naturalmente lo Stato non vuole davvero pagare a breve, perché sennò emersione di debito pubblico aggiuntivo, però esisterebbe la possibilità di una trattativa tecnica in base alla quale, nel recepimento della direttiva che noi abbiamo fatto formalmente ma non abbiamo fatto decreto di attuazione, si può benissimo mettersi d'accordo con Bruxelles e dire sì, è vero, noi rendiamo scontabili, cioè incassabili subito dalle imprese quei soldi, e sono, ripeto, dai 4 ai 5 punti di PIL, non poca roba, e in cambio del fatto che però diventa più debito pubblico, non ha effetto sul deficit annuale. Allora, questo è un criterio che è tecnicamente accettabile. Io non ho mai capito perché la Ragioneria Generale dello Stato dica che non si può fare. La trattativa all'Italia non l'ha fatta. Io so che l'effetto di privatizzazioni aggiuntive, misure strutturali sulla previdenza e 3 punti, 4 punti di PIL messi in pagamento al sistema delle imprese che è corto di liquidità, questo potrebbe essere un'altra di quelle misure straordinarie. Non come la patrimoniale che vi propongono invece e vi proporranno, secondo me. Carlo Gentili, ancora sul filone di rendere chiaro a chi ci ascolta quali sono le conseguenze di una crisi finanziaria che non riguarda solo i bilanci delle banche, non riguarda solo gli spread dei titoli e debito pubblico. Cosa succede a un privato o a un'impresa piccola che abbia per esempio in corso una qualunque operazione obbligazionaria quando i mercati tambureggiano come sta avvenendo? Si può fare o non si può fare? No, non si può fare, non riesce a collocarla perché a che tassi gli viene prezzata. In questo momento appunto il BTP italiano a 10 anni, che è un po' il benchmark, un po' il punto di riferimento per quel tipo di operazioni, rende oltre il 6%, quindi a che tassi vengono, peraltro un BTP a 2 anni rende il 4%, oltre, abbondantemente oltre il 4%, un BTP a 2 anni, quindi a che tassi andranno a impiegare le banche, e soprattutto gli imprenditori e i risparmiatori a che tassi potranno indebitarsi. Ecco, mi sembra che in questo momento il mercato voglia andare a vedere cosa succede alle aste dei BTP italiani domani e giovedì, soprattutto quelle di giovedì, vedere che tassi spuntano, perché quelli sono poi diciamo il costo opportunità delle banche e il costo opportunità del diciamo, il prezzo che paga l'imprenditore che vuole mettere un'obbligazione o che anche semplicemente vuole rivolgersi al proprio istituto bancario per ottenere un prestito. Quindi c'è nebbia fittissima e direi impossibilità ad operare, perché insomma è difficile andare oggi in banca e chiudere, forse sia per ritrosia della banca e forse anche per la difficoltà dell'imprenditore, di no, cioè chiudere oggi un'operazione a che prezzo, come si fa a stabilirlo, rischia di essere pericoloso per il prestatore e per l'imprenditore, cioè non è un momento di facile gestione questo. Sulla speculazione mi viene da dire, chiesa appunto, io non credo a questa, cioè già non capisco l'espressione, non so cosa vuol dire speculazione. Chiunque si affaccia al mercato finanziario, che lo faccia con 1000 euro, che lo faccia con 1 miliardo di euro, lo fa per un'unica ragione, per guadagnare, e ognuno utilizza i mezzi che ha, purché legali, per portare a casa un determinato profitto. Questa è la logica con cui si muove il mercato, quindi l'accezione negativa a speculazione non la comprendo. I mercati si stanno semplicemente facendo dei conti e sulla base di quelli si stanno comportando, appunto non ricevendo risposte, non vedendo provvedimenti determinanti e concreti da parte della classe politica, continuano a vendere quello che hanno. hanno e anche quello che non hanno dei nostri titoli di Stato, dei nostri, delle nostre banche. Sull'inflazione qualcuno appunto pensa sempre che l'inflazione possa essere in tocca sana o che, diciamo, il tasso di cambio che è stato molto alto possa essere l'elemento, diciamo, che ha danneggiato l'Europa. Io la penso esattamente all'opposto, insomma, ecco, innanzitutto operazioni sul tasso di cambio in senso ovviamente che va verso un deprezzamento, la BCE non rientra nel mandato della BCE, la BCE non ha alcuna competenza, non ha alcun ruolo sulla determinazione del tasso di cambio e è stata limitata in tutte le operazioni che potevano, diciamo, determinare questo, cioè non può per esempio acquistare titoli di Stato sul mercato aperto proprio perché non si vuole che la BCE alteri la base monetaria, si vuole che la BCE innanzitutto abbia non con obiettivo il tasso di cambio, ma garantire la stabilità dei prezzi. E questa è stata un'operazione che la BCE ha condotto in maniera coerente e in maniera direi egregia, e questo ci ha consentito di avere un premio per il rischio per i titoli di Stato, che sono veramente il costo di opportunità per le banche che poi vanno a prestare denaro agli imprenditori, basso, molto basso, proprio grazie all'obiettivo di tener bassa l'inflazione. Un'inflazione più alta avrebbe certamente spinto all'insù i tassi di interesse e questo di sicuro non avrebbe aiutato né i conti pubblici, che erano la priorità in quel momento, e oso dire neppure la crescita, perché ci saremmo, come dire, disallineati e l'Italia avrebbe pagato ancora di più il prezzo di quello che l'avrebbe pagato prima, sicuramente il prezzo per un tasso di inflazione più alto. È vero, ma è chiaramente impossibile, è un'operazione che non esiste nella realtà. È vero che un tasso di cambio più basso a parità di tasso di inflazione, è vero che questo renderebbe più forte l'economia dell'euro, ma questo non è nelle mani della BCE, non è nelle mani di nessuno. L'euro è forte perché abbiamo avuto un'inflazione molto bassa e nessuno poteva intervenire in senso contrario, mantenendo ovviamente l'inflazione bassa, altrimenti questo paradigma non sarebbe più vero. Release ufficiale dei conti del primo semestre greci, puntualmente confermata la previsione di chi immaginava che buttando in deflazione la Grecia, ovviamente i saldi, la sostenibilità del debito pubblico, a differenza di quanto si immaginasse, andavano peggio e non meglio, perché alla fine dei primi sei mesi il deficit greco è di 2.4 miliardi di euro superiore alle previsioni e all'ancoraggio del piano di rientro concordato con Bruxelles. Quindi la Grecia non sta, malgrado i tre successivi piani che hanno incendiato le piazze greche, rispettando il rientro concordato con Bruxelles del suo debito pubblico, del suo deficit annuale. Quindi ecco quello che poi spiega e fa scommettere al mercato che con questa debolezza complessiva degli accordi europei e dei governi in carica, meglio scommettere perché l'euro salta, l'euro paese dopo paese entro il 2013. Questo è il quadro che vi abbiamo raccontato. Avete sentito opinioni diverse? C'è una linea a Giannino Sapelli, per così dire, che dice subito interventi in poche ore che annunciano privatizzazione per 2 punti di PIL, che annunciano misure strutturali per una 15 miliardi di euro, tagli previdenziali, innalzamento tetti previdenziali, eccetera eccetera, e a questo punto misure che non incidano nel prelievo fiscale ma rendano possibile, anzi, diminuzione della pressione fiscale. L'altra linea è chi dice patrimoniale tutti uniti e stangare gli italiani. Abbiamo già visto gli effetti della seconda linea, viene di solito magnificata come la grande linea della coesione del piave italiana. Io non credo a questo. La cosa peggiore è la terza, quella su cui sia io che Barbera scommettiamo, cioè quella che in poche ore il governo italiano non farà niente di tutto questo, tranne poi raccontarci in interviste che la colpa è di questo, di quello, che il governo è fatto da un ministro disomogeneo, da un presidente del consiglio rimbambito. Non lo so, certo è che queste sono le ore decisive. Noi non pensiamo di drammatizzare ma di raccontarvi quello che avviene sui mercati. Ora, appuntamento con me a domani. Intanto, linea al giornale radio. Oggi è meglio che non leviate l'orecchio dal canale di Radio 24.